Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Un saluto a tutti da Francesco Galante, ma soprattutto al presidente dell'Adico, l'Associazione Difesa Consumatori di Mestre, Carlo Garofolini. Ciao Carlo. Ciao Francesco, un saluto a tutti gli ascoltatori. Carlo, oggi parliamo di tecnologia sotto l'ombrellone. Sì, beh, sappiamo che lo sportello Vacanze Informata sicuramente sta già lavorando a pieno ritmo. Tra le varie cose dobbiamo anche occuparci dei cybercrime, perché abbiamo notato come le truffe sotto l'ombrellone durante la vacanza non si fanno mancare, e quindi qualche consiglio agli ascoltatori per non vedersi rovinate le ferie: vale la pena darlo in questi giorni. Benissimo, e allora cominciamo a snocciolarli questi problemi che possono capitare. Sì, innanzitutto Francesco, bisogna notare come in questo periodo si raddoppia il phishing vacanziero, cioè al fine di, cioè offrendo finte vacanze e offerte di viaggio, vincite di premi o sconti straordinari. Normalmente gli hacker pescano via mail, sms, chat o social network, e quando una cosa è troppo bella per essere vera, normalmente dobbiamo ricordare agli ascoltatori che non lo è mai. E soprattutto bisogna tener conto che tutte queste informazioni, diciamo, che riescono a criptarci, normalmente vengono anche ottenute dal fatto che in spiaggia troppo spesso si trovano delle reti wifi libere, che però generalmente non ne approfittano della nostra spensieratezza per colpirci sotto l'ombrellone. Ah, e questo è interessante, nel senso, uno trova un wifi che è libero, dice beh, utilizzo questo così non spendo i soldi della mia connessione, e magari poi vai a inserire all'interno dei dati importanti, significativi per te, che possono essere in qualche modo pescati, giusto? Sì, perché spesso queste reti non sono criptate, quindi non sono protette, e sono anche configurate in modo approssimativo dal punto di vista della sicurezza. Ricordiamoci che questo è anche un monito lanciato da Andrea Zappaoli Manzoni, che siede nel consiglio dell'Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica, e quindi ci aiuta anche a, appunto, a rimanere un po' più attenti rispetto a un periodo di spensieratezza dove generalmente si tende un pochino ad abbassare, come dire, la guardia. Soprattutto noi come Adico aggiungiamo anche i rischi per la carta di credito, che normalmente ricordiamo è sempre meglio essere prudenti anche per piccoli pagamenti, soprattutto nei paesi esteri. Generalmente ricordare sempre che la carta di credito è meglio non lasciarla mai in mano a qualcuno fuori dalla nostra portata. Ecco, quindi quando si va a pagare al ristorante non darla al cameriere, ma insomma seguirla a vista in qualche modo, no? Sì, esattamente, e soprattutto bisogna anche stare molto attenti appunto anche al nostro all'invio di fotografie, che a volte durante l'estate si cerca anche di pubblicare foto, diciamo, compromettenti, ma insomma quasi al limite, perché in vacanza ci si può capitare di lasciarsi andare a fare cose e poi rischiare di trovarsi in situazioni, insomma, imbarazzanti. Quindi tante situazioni che d'estate vedono un periodo favorevole e che i nostri ascoltatori devono sempre ricordare, appunto, di stare un po' attenti, e soprattutto ricordo l'occasione del collegamento per ricordare agli ascoltatori che il nostro sportello è sempre attivo anche per dare questo genere di informazioni e di assistenza. Certo, mi viene in mente per esempio il fatto di postare delle foto che siamo in vacanza sulla nostra pagina Facebook, che magari è accessibile a tutti perché non abbiamo filtrato bene i parametri di accesso alle nostre informazioni, e possiamo dare spazio a eventuali ladri che sanno che non siamo a casa, no? Sì, anche Francesco, pubblicare con troppa disvoltura immagini, per esempio in topless o in costumi o di certi filmati, dopo magari trovarci a settembre o ottobre nella ricerca di lavoro e rischiare anche di vedere compromessa la propria candidatura. Quindi tanti comportamenti e tanti consigli che potrebbero, insomma, migliorarci la qualità della vita e rischiare di non ricadere su anche situazioni, come abbiamo definito, imbarazzanti, ma che poi potrebbero essere anche ancora più pericolose. Vabbè, starò molto attento quando la prossima volta mi collegherò con un wifi libero. Grazie per avermelo segnalato. Ricordo che c'è il sito associazionedifesaconsumatori.it, dove troviamo interessanti notizie e anche poi contatti per chiedere aiuto all'Adico. Grazie al presidente Carlo Garofolini, a tra qualche giorno. Grazie a te Francesco, un saluto a tutti gli ascoltatori.